mi proponevo sempre di dare un senso, ma le cose che conquistano l'intera notte dilatate. Su una superficie fissa dalla densità sprofondata nel desiderio nudo, bianco, lucente, galleggia sugli occhi della donna, chiusi nell'oscurità, annega la parola che non ha più senso. E di nuovo non sopporto tutto quello che in un fremito molle sulla carne, sopra le ossa, come una scultura con le mani pensate, che battono da falegnami sulle ombre, martelli fitti di domande. E non si sentono che grida tra i suoni infittiti di chitarre estese oltre le stelle, flauti che battono sull'acqua come un remo impaziente di chi giunge da un tempo più lontano, impaziente fino allo spasimo. Chi sopra il letto con vestiti inzuppati a intervalli regolari, in un piacere sempre che cade in altri angoli bui, dentro armadi, come un abito che è caduto con un tuffo leggero nel cuore, a volte strisciano dentro ciabatte vecchie, storia da vecchi, storie da vecchi. Buonasera, in un riflesso verde una serpe con zampe sottilissime, ferme, guarda in un occhio bello, concavo, cancella le risposte improvvisate da lucertole, con grandi occhi ciechi, neri, privi di riflessi, nella stanza guardi te stessa, ti ingrandisci smisuratamente. Der Wanderer. Davide! Ma io no, certo che non leggo. Mica posso leggere tutto, tutte le mie poesie. Perché no? No. Un'altra? No, no, basta. Già mi sono fatto del male leggendo sì. Sì. Non terremo più la vostra attenzione. È un altrove, si rovescia con un odore di tabacco verso il mare. E se nevicasse in un paesaggio triste e con le tasche vuote parli nelle orecchie agli animali inconsueti, trovare una memoria più lontana, più cattiva. Ma da dove viene e cosa cerca? Non ha che gocce di rugiada ed evidenti segni della cenere. Copre il mantello grigio, deve aver viaggiato di notte. Forse il fuoco era sotto la carne, alzava le lenzuola per un incendio nella sua voce, la donna. O la città nel cigolio delle porte, oltrepassava quelli delle fughe, aprono ancora per riportarci alle nuove costruzioni nelle ombre di mora, quando l'estate disperde le mani sui cretti, sopra informali caratteri della sorte, disperdere le mandrie del cielo, che si cali la terra verso oriente tra le comete. Vedi, orienta la Wanderer, eh? Sì, sì, ecco, vedi, fine! Bellissimo! Fine! Quindi, tra l'altro era una parte prima di quello. Ah sì? Esatto. Bellissimo perché c'è stato proprio l'orienta. Chiuso però. Il pettinatore di comete, com'era? E quindi dicevo, cioè tu mi resti nella rappresentazione. Rimanine come tutto il Novecento, mi rimani nella rappresentazione? Confessa, sì. Qua sta la domanda. Io rimango nell'irrappresentabile visione. Irrappresentabile è Carmelo Bello. Visione. Irrappresentabile. Vabbè, ma lui è stato l'unico a uscire da... Lui è stato l'unico a uscirne, eh? Vabbè. Era un po' provocatoria sta cosa. Era un po' provocatoria. Thank you. Avendo pensieriato tutta la notte, ho deciso di passare in rivista i granatieri. Così, se vi scorgesse questa sera, io non penso a una sommossa. Ho incaricato Michilinia e il maggiore del reggimento di Mulan per venire a informarmi di tutto quello che si dice nei botteghini. Ritengo che approverà questa misura e affermo che migliori i più fedeli aderenti alla causa del Brasile, che i mulatti, miei amici, nessuno. Niente formule per la contemporanea espressione del mondo. Vedere con occhi liberi. Pater familias e la creazione della morale della cicogna. Due punti. Ignoranza reale delle cose più mancanza di immaginazione più sentimento di autorità di fronte alla prole curiosa. È un club. Sulle note e sul pentagramma. Le chiavi che ci riguardano sono due: chiave di sol per la mano destra, chiave di fa o di basso per la mano sinistra. La tastiera è composta da tasti bianchi e da tasti neri. I tasti bianchi producono i suoni naturali, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mentre i tasti neri, quegli alternati che tratteremo più avanti al capitolo alterazioni, si susseguono in gruppi di due e di tre. Si potrà notare che la nota musicale Do corrisponde al tasto bianco che precede il gruppo di due tasti neri. Le mani devono appoggiarsi sulla tastiera prendendo una forma leggermente concava. Le dita in curve. Il mignolo resti dritto affinché la mano abbia maggiore stabilità ed il pollice formi una linea retta col tasto su cui appoggia, percotendo con una parte della falangetta, cioè non oltre la radice dell'unghia. Le braccia non stiano aderenti al corpo, ma nemmeno troppo distanti, come pure l'esecutore non si siede eccessivamente vicino allo strumento. L'altezza del seggiolino si è regolata in modo che i gomiti dell'esecutore si trovano in posizione orizzontale rispetto alla tastiera. Ciascun dito percuota i tasti, ma senza durezza. Polso e braccio sempre rilassati. È utile, prima di proseguire, allenare la mano destra suonando uno alla volta i tasti con la diteggiatura proposta dal disegno. Thank you. misura è lo spazio di pentagramma racchiuso fra due stanghette e contiene dei valori musicali, note e pause, la misura è uguale al valore indicato dalla frazione numerica. D'accordo. È così chiamato di tre o più note, tasti, che devono essere premuti contemporaneamente dalla mano sinistra. L'accordo serve da accompagnamento alla linea melodica eseguita dalla orchestra. L'accordo viene indicato da sillabe poste sopra o sotto la melodia. Tali sillabe portano il nome delle note. Doc, red, mie, fa, sol, la, si. Ricordare che l'alterazione posta subito dopo la chiave altera la nota per tutta la durata del brano musicale. I suoni possono anche essere doppiamente alterati. In questo caso si usano i seguenti segni. X. Una maggiore comprensione della materia e di essere stato di aiuto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al meraviglioso mondo di tua sorella dei suoni. NB, l'utilizzo di questo metodo è di fondamentale importanza, soffermarsi sugli esercizi proposti, anche più semplici. Allenando più volte il movimento delle mie, prima di procedere allo studio dell'esercizio. No, dobbiamo fare foto. Dobbiamo fare foto. Ce l'hai la macchina fotografica? Fammi le foto, dai.